Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat in questo sabato sera, sempre qui dall'Aidama, dagli studi di Radio Wombat per questo sabato sera in compagnia di Tonight Alive. Come ogni 15 giorni ricorderete, Tonight Alive torna il sabato sera a tenervi compagnia per questo appunto sabato sera. Nella 40esima puntata di questa trasmissione volevo festeggiare, diciamo, tra virgolette, questo evento con un gruppo italiano, visto che in tutte queste 40 puntate di Tonight Alive sono stato decisamente esterofilo, e allora per questa 40ª puntata ho voluto dedicarla a un gruppo italiano, ai Casino Royale, gruppo direi abbastanza importante per gli anni 90 italiani, un gruppo che ha avuto un'evoluzione musicale proprio dalla sua nascita fino alla sua, diciamo, conclusione, che poi alla fine non è neanche vero, perché i Casino Royale continuano tuttora a pubblicare, però stasera ci occuperemo principalmente della loro fase storica, della loro evoluzione da questi inizi, come avete potuto sentire dalla sigla di stasera, che forse è il loro brano d'antonomasia per la loro fase iniziale, il loro brano omonimo Casino Royale del 1988, uscito su Soul of Ska. Veramente un pezzo di ska italiano questo pezzo, chissà quante volte l'avrete sentito in dei set ska qui in giro per l'Italia. Ha fatto veramente la storia dello ska italiano. Però come sempre, come uso e costume per Tonight Alive, prima di iniziare con questa nuova puntata, voglio ricordare i nostri canali per mettervi in contatto con noi. Innanzitutto la nuovissima frequenza su cui stiamo trasmettendo per l'area fiorentina, 1359 1359 in AM per chi è nei dintorni della zona fiorentina. Ovviamente i nostri podcast, come sempre, li trovate sul sito della radio, che spero sappiate ormai è wombat.noblogs.org. La nostra mail è, come sempre, non è cambiata, posta wombat@insiberia.net, e i nostri canali social, abbiamo anche quelli, sia Twitter su twitter.com/radiowombatfi, che sia su Facebook, la nostra pagina Facebook è facebook.com/radio-wombat-firenze. Però torniamo a bomba, a parlare dei Casino Royale. E i Casino Royale si sono formati a Milano intorno al 1987, nella fine degli anni 80, e si sono formati dall'incontro di diversi musicisti gravitanti intorno all'area metropolitana milanese, tra i quali i membri fondatori di questo primo nucleo erano sicuramente Alyosha, Bibi Dai, Bisceglia, Giuliano The King Palma, che poi forse ve lo ricorderete anche per le sue fortune odierne, Michele il Pardo Paoli alla chitarra e il batterista Ferdinando Ferdi Masi. Tutti musicisti accomunati dalla passione per lo ska e per i suoni delle etichette londinesi come la Two Tone, ad esempio. Giusto per farvi capire quanto erano devoti allo ska londinese, giamaicano londinese, già il loro nome Casino Royale è un omaggio alla canzone Suck It To Them JB della ska band inglese degli Specials, nella quale appunto viene citato il titolo del primo romanzo della saga di James Bond di Ian Fleming, appunto Casino Royale. E giusto per rinfrescarvi la memoria, da dove nasce lo ska, tutta questa devozione per questo genere musicale che non era propriamente italiano per i Casino Royale? Bene, lo ska nasce tra la fine degli anni 50 e i primi degli anni 60 in una Giamaica che stava prendendo fortemente spunto dalla musica statunitense. I proprietari dei sound system di Kingston cominciarono a riadattare in chiave personale l'R&B e il boogie giamaicano, creando questi nuovi sound soprattutto per loro stessi, non per fini commerciali, ma i musicisti locali giamaicani appunto introducevano anche il jazz oltre al oltre all'R&B e al boogie, sempre cercando di creare una nuova forma di espressione personale. Ed era solamente una questione di tempo prima che le cose iniziassero a cambiare veramente. E questo fu letteralmente quello che fecero Prince Buster e Clement Coxon Dodds nei primi anni alla fine degli anni 50 e nei primi 60. Appunto, la Giamaica stava per ottenere la sua indipendenza dalla Gran Bretagna, e Coxon, questo DJ, riconobbe che il paese aveva bisogno di unità e di un'identità, e iniziò a far registrare diverse band locali nei suoi leggendari studios, gli Studio One di Kingston. E da qui la musica giamaicana iniziò ad assumere tratti caratteristici, mescolando le influenze di diversi stili che i musicisti giamaicani avevano imparato dall'estero, come appunto il rhythm and blues e il jump blues, e le incrociarono appunto insieme alle musiche locali. E la più importante di queste influenze locali fu sicuramente il mento, la prima forma di musica indigena giamaicana, che essenzialmente era una miscela tra il calipso caraibico e la musica folcloristica locale. E appunto questi giovani milanesi rimasero fulminati dall'arrivo dello ska attraverso Londra. E così, forti di quella comune passione, reclutarono nell'area milanese altri appassionati del genere per completare la prima formazione dei Casino Royale, e appunto si aggiunsero Michele Danca alle tastiere e all'organo, Antonio Brown Marrone al basso e la sezione di fiati composta da Nicola Frisia e Silvio Rovati ai sax, e anche Andrea Incerti alla tromba. E con questa formazione stamparono il loro primo singolo in 200 copie nel 1988 su etichetta Transcontinental. Il singolo era Never Let You Go sul lato A e Stand Up Terry sul lato B, la prima scritta appunto da Alyosha e la seconda scritta dal batterista Ferdi, ed entrambi in inglese. E appunto da questo primo LP andiamoci ad ascoltare il lato B, che era Stand Up Terry in puro stile ska giamaico londinese. Casino Royale, Tonight Alive. We'll be right back. E questo appunto era Stand Up Terry, lato B di questo primo singolo dei Casino Royale del 1988. E appunto questo primo singolo riscuote un buon successo nella nicchia dello ska, è stato ricevuto molto bene. E sempre in questo 1988 arriverà anche il momento del primo EP composto da 6 tracce, questa volta su etichetta Vox Pop, e il titolo di questo EP appunto è Soul of Ska. E in questo album tra l'altro si aggiunge alla sezione fiati il trombone di Daniel Israel. E questo EP è un chiaro tributo in salsa italiana allo ska giamaicano di gruppi come Special, Madness, oppure anche mi viene in mente Toots and Maytals ad esempio, che erano presi proprio come numi tutelari del gruppo. In 2 delle 6 tracce presenti sono cover. La prima è dei Drifters, dello storico gruppo doo-wop di Clyde Mapatters, e dei Drifters hanno coverizzato Under the Boardwalk. E invece l'altra cover è un omaggio ai Blues Busters con Soon You'll Be Gone. Ma sono soprattutto le tracce autografe che mostrano una band magari ancora un po' acerba e in rodaggio, ma con un potenziale notevole a livello sonoro, come ad esempio in Someone Says, che ha ancora certe influenze wave, oppure come la bella e tirata Unemployed Investigator, composta a 4 mani da Alyosha e da Giuliano Palma. Ma in questo primo EP è già presente il primo classico dei Casino Royale, ovvero la sigla che abbiamo sentito poco fa, l'omonima Casino Royale. Un esordio, insomma, che ancora oggi regge benissimo il confronto e che già rivelava non solo le doti canore di quel Giuliano Palma coinvolto da capo a piedi nei ritmi giamaicani, ma anche la compattezza di una band che commetteva pecche solo magari per la poca esperienza sul campo. E da lì all'anno dopo uscirà alla fine del 1989 Ten Golden Guns, che non è nient'altro che la ristampa di Soul of Ska, che però non contiene appunto Ten Golden Guns e Housebreaker, presenti invece in Soul of Ska. E mi direte che senso ha? È perché questa è la reedizione di Soul of Ska per il mercato inglese, infatti uscì sulla label inglese Unicorn Records. E da questa ristampa per il mercato inglese di Soul of Ska andiamoci a sentire appunto il brano omonimo Ten Golden Guns. Tonight Alive, Radio Wombat. E questo appunto era lo scavirato western di Ten Golden Guns, il singolo per il mercato inglese, tra l'altro mercato in cui Casino Royale hanno avuto anche un discreto successo nella loro fase ska. Però andiamo al successivo album dei Casino Royale del 1990 su etichetta V2, Jungle Jubilee. Testimonia innanzitutto la crescita della formazione, più sicura sia in fase esecutiva che nella scrittura dei pezzi, magari un po' meno diretti rispetto alle primitive incisioni, ma altrettanto efficaci. E persino il mixaggio, stavolta realizzato al Corner Studio di Londra, rende appieno lo sforzo dei nostri. Sicuramente episodi come il reggae virato dub di White Sun, oppure la folcheggiante Love is the Law, o Tam Tam Party, Eddie the Hunter, e la stessa title track Jungle Jubilee ci mostrano una strizzatina d'occhi ai Clash dell'epoca di Sandinista. Però è da non dimenticare la rilettura di Caravan Petrol di Renato Carosone, qui coverizzata e trasformata in ska. Infatti la richiameranno Scaravan Petrol i Casino Royale, appunto cover che viene rivisitata con la giusta dose di ironia e personalità, appunto a testimoniare una raggiunta maturità da parte del gruppo. E appunto di questo Jungle Jubilee andiamoci ad ascoltare immediatamente il secondo classicone ska dei Casino Royale, che appunto è questa Jungle Jubilee. Tonight Alive, Radio Wombat. E questo appunto era l'altro grande classico ska del primo periodo dei Casino Royale, Jungle Jubilee. Ma arriviamo in questo 1992, quando Antonio Brown Marrone lascia il posto al basso a Alessio Manna Argentieri. E nell'anno successivo, l'anno, il 1993, è l'anno appunto di una delle prime evoluzioni che avrà, tra delle tante evoluzioni che avranno i Casino Royale nella loro carriera, perché questo 93 è appunto l'anno dell'uscita su etichetta Blackout di Dynamita, che fu appunto l'album della svolta, della prima svolta dei Casino Royale, perché appunto lo ska delle origini non veniva messo proprio in soffitta, ma bensì triturato assieme a nuove sonorità che contemplavano l'uso dei campionatori, dei samples, dei loop, di tastiere e quindi più macchine in generale. Infatti il lavoro è ricco di sperimentazioni, il pensiero va subito ai Mano Negra e dal loro crossover. In quel 93, appunto, come già detto nella puntata sui Mano Negra, i Mano Negra stavano spingendo parecchio a livello europeo e sicuramente, scusate, i Casino Royale hanno indubbiamente assorbito una parte delle loro contaminazioni e delle tante altre variabili che sembrano schegge impazzite nell'universo sonoro del gruppo, perché appunto ritmi indiani, crossover allo stato puro, reggae e hip hop sporco sono solo alcuni dei frammenti di questa incredibile miscela sonora di Dynamita del 93. E per la prima volta cantano da qui in avanti in italiano, quindi abbandoneranno l'inglese, inizieranno a cantare in italiano. E dopo una intro giocata sulle note di pianoforte, ovvero De Maestro, detona subito la title track Dynamita in tutto il suo splendore, 2 minuti e 50 di puro genio creativo, con chitarre distorte, fiati e scratch del buon DJ Graff, e il cantato rappato di Alyosha che si fonde con la magnifica voce di Giuliano Palma. Parte con la loro vena drum and bass Treno per Babylon, perfetta alchimia musicale e vocale, condita come sempre dagli scratch di vinile e dalla sezione di fiati, mentre nella successiva traccia, Re senza trono, si respira un clima diverso, ma fatto di umori giamaicani, del sole dell'estate e soprattutto dell'amore appena consumato e di fresca malinconia, il tutto giocato su un reggae sintetico. Affiancate a queste perle di melodia ci sono anche episodi più duri come KZK, sostenuta dalla chitarra distorta e dalla voce di Alyosha, che sa ben adattarsi ad ogni struttura sonora, oppure la cover di Purple Haze dell'immortale Jimi Hendrix, trasformata per l'occasione in uno ska danzereccio. E a completare l'opera, tre brani non meno interessanti. Per il primo, ad esempio, Justice, brano introdotto da uno spoken word, vengono narrate le grandi ingiustizie subite nei secoli dai nativi americani fino agli sprechi monetari dei giorni nostri. E vi volevo appunto far sentire come primo brano di questo Dynamita, questa Justice, che un po' è il loro primo manifesto della nuova era. E quindi Casino Royale, Justice su Radio Wombat. 12 ottobre 1492. Le tre caramelle apparecchiano la tavola per il banchetto più ricco della storia a spese dei nativi americani, la cui terra viene ribattezzata dai commensali Nuovo Mondo. Los Angeles, Nuovo Mondo. I poliziotti responsabili del pestaggio di Rodney King sono attualmente liberi ed in servizio. ONU. L'80% delle risorse mondiali vengono utilizzate dal 15% della popolazione. Roma. Un'aragosta al ristorante di Montecitorio costa 12.000 lire. Città del Vaticano. Il Papa, rivolgendosi ai popoli del Terzo Mondo, ribadisce l'inconciliabilità del controllo delle nascite con la fede cattolica. Mentre ci state ascoltando, sono in corso al mondo diverse guerre, tutte combattute con armi prodotte in Occidente. Questo era il finale di Justice, primo pezzone veramente del nuovo ciclo dei Casino Royale. pezzo disco a cui sono particolarmente affezionato, questo della prima svolta dei Casino Royale. Ma appunto in questo primo disco non è finita qua. In JSS il mantra recitato in JSS è cantato dal cantante meneghino Edda, ritornato fuori, se siete attenti al circuito alternativo, ritornato fuori da qualche anno anche Edda. E appunto sempre in questo Dynamite arriviamo a un altro pezzo cardine di questo album, che è Metallo Giallo, ovvero Justice parte seconda, praticamente. I concetti finali del brano precedente appunto vengono infatti ripresi e portati avanti, sempre affrontando. Metallo Giallo è un brano che appunto parla della scoperta, tra virgolette, del territorio americano da parte degli europei, e che l'hanno usato appunto come giardinetto per i loro massacri e i loro sfruttamenti delle popolazioni indigene. Infatti, secondo i Casino Royale, in Metallo Giallo il denaro è il motore del mondo contemporaneo e la nostra è una condizione di falsa dinamicità in cui i cambiamenti riguardano solo l'estetica ma non la sostanza. E tocca a un brano stupendo, bellissimo per me, come cielo chiudere il disco, che porta un po' marchio di fabbrica milanese in questo pezzo a chiusura del disco. Infatti questa critica alla capitale meneghina, dove il denaro parla, canta, balla e fa girare la testa, e possiamo proprio dire che con questo Dynamite i Casino Royale stavolta fanno veramente centro. E ascoltiamoci appunto questa Cielo, stavolta ripresa in versione live, per farvi apprezzare fino in fondo l'aspetto live dei Casino Royale, che era sicuramente uno degli aspetti fondamentali della band, dove riusciva proprio a esprimere il massimo potenziale, ancora più rispetto allo studio, secondo me. E questa appunto è Cielo dei Casino Royale su Radio Wombat, Tonight Alive. Sopra noi solo cielo, le nubi chiudi l'ombra che chiede vento. Ma quando passa la pioggia sporca, quando passa cade ancora una volta sopra quelli che sanno che Milano è la città dove il denaro balla, canta, balla, salsa, fa girare la testa. Ma che regole, questo è il mondo e io rispondo, e sotto questo cielo stanco stringo fino in fondo. Siamo ruvidi per l'uso dal nostro manuale. Devi tentare tre lontano che ti sta cambiando, tentare tre lontano che ti sta avvelenando, tentare tre lontano gli anni che verranno. Sotto questo cielo stanco è un mezzo mele caldo paglia, una mezza malaria di cucciolo da paglia. Ehi, tieni alta la guerra, sei capace. Tu ci provi, ci riprovi, più ci provi, più ti piace. Chi mi sbaglia troppo sbaglia, sbagli, ma se non imparo più. Sotto questo cielo chi sbaglia troppo sbaglia, sbagli, ma se non imparo più. E poi scappiamo in questo adesso. Se amici del caos, ciao Milano, ciao. E questa era la versione live di Cielo, al pezzo di chiusura di Dana Maisa del 1993. E appunto il disco successivo del 1995 sarà un'altra ulteriore evoluzione nonché consacrazione per i Casino Royale. E appunto si tratta dell'album del 1995 uscito su Blackout, ma è il primo a essere distribuito da una major, ovvero dalla Polygram, e stiamo parlando di Sempre Più Vicini. Probabilmente l'avrete quantomeno sentito nominare, perché avevo trovato un paio d'articoli di un po' di giornalisti che appunto dicevano che se siete stati adolescenti negli anni 90 non importava che musica stavate ascoltando al momento, però Sempre Più Vicini dei Casino Royale era un po' un punto di contatto che ha fatto ascoltare questo album anche a persone che ascoltavano magari tutt'altro tipo di musica e di genere musicale. È stato, diciamo, un po' un punto di incontro. Sicuramente per me lo è stato, ora non so anche per quegli altri. Io me lo sono sinceramente finito questo disco da ragazzetto. E questo album è prodotto da Ben Young, artigiano del suono della nascente scuola di Bristol, e infatti presenta sonorità più profonde e introspettive, sicuramente influenzate dal nascente movimento trip hop di Bristol e dall'acid jazz anche. In questo album la formazione si assesta definitivamente con un nuovo avvicendamento al piano, che direi tra l'altro fondamentale per la line-up della band. Infatti Michele Danca lascerà il posto alle tastiere a Patrick il Delfino Benifei, e la sezione fiati per questo album verrà completamente stravolta e verrà completamente lasciata tutta nelle mani del solo Nicola Perri Frisia, unico superstite della precedente sezione fiati. E nonostante, mi sento di dire che nonostante i suoi 23 anni, questo album suona ancora tanto, tanto moderno, ed è il segno e la dimostrazione di quanto avanti erano i Casino Royale all'epoca. Dagli inizi reggae, ska, rocksteady sono arrivati a contaminare la propria musica con echi di jazz e di elettronica made in England, influenzati sicuramente sotto quell'aspetto dal trip hop dei Massive Attack, dai Portishead. E sicuramente in quegli anni i Casino Royale sono veri e propri precursori di molta produzione italiana degli anni successivi. Ancora l'ottima miscela delle voci di Alyosha e Giuliano Palma, e sicuramente si parte con questi 7 intriganti minuti di ogni singolo giorno, vera e propria lussuria tentata dal dub, che infatti si avvicina molto più allo stile rallentato degli Alma Megretta rispetto a un suono precedente dei Casino Royale, ma anche dal soft funk da paradiso di Cose Difficili. Ma c'è anche il ritorno sul levare dub giamaicano di Anno Zero con il suo coro dal piglio assolutamente pop, e quindi andiamocele a sentire in sequenza questa doppietta assolutamente tutta da ascoltare. La prima con Anno Zero, appunto il ritorno al dub giamaicano di Anno Zero, e il secondo non potevo non farvi sentire questo inizio di disco di ogni singolo giorno, però anche questo nella assoluta e direi definitiva versione live che hanno dato sul loro successivo 1996 adesso, che per me è proprio la versione definitiva di questo brano, ancora di più dell'originale contenuto appunto in Sempre Più Vicini. E adesso sentiamoci appunto questa doppietta iniziando da Anno Zero. Royale, sincronizzo tutto sopra il ritmo elevale. Durante questi anni ho visto poco la casa ed alcuni di noi si sono persi per strada. Tin tin, ehi già, rock rock star, la vita che accompagna la tua musica, la musica accompagna la mia vita, e questa sfida non è ancora finita. Sembra testa a testa, la musica che cambia ma per noi è la stessa. L'equipaggio testa, dico che ha ragione, prova tu a suonare questa situazione. Ma tutto può scoppiare da un momento all'altro. Mayday, mayday, ho un'emergenza, vado, relax. Quanto ci costa a mantenere l'astronave sulla rotta giusta? Sì, ci chiama così, dobbiamo muoverci, gente, come vedi, un'altra sfida chiama e siamo ancora in piedi, nostro un'impirata nell'impero, tutto ancora fermo all'anno zero, io la passo, chiudo e ripiglio il volo, baby dai, comandante solo. Casino Royale, missione speciale, pronti a decollare. No,

questa era la meravigliosa versione di Ogni singolo giorno contenuta nel live 1996 adesso. Meno male che ho spento il microfono, se no sarebbe continuato a piovere per almeno altri due mesi, visto che me la sono fatta tutta in karaoke, così, meglio così per voi che non l'abbiate sentita, però sappiate che se continuerà a piovere saprete a chi dare la colpa, però vabbè, fatevene una ragione. E questo disco sicuramente quasi non trova paragoni, talmente fa sua la prerogativa della musica essere un linguaggio universale. Una miriade di generi sapientemente miscelati passano da una canzone all'altra in un continuum sonoro spaventosamente entusiasmante, almeno per me. Reggae velato di elettronica, ska sfumato trip hop, rocksteady venato di new jazz. Ovviamente il lavoro dietro al banco di Ben Young si fa molto sentire, ma c'è un ma però. Non solo la musica, ma anche le due voci, come già detto, sono fondamentali, importantissime, e allora questo ma si vaporizza, perché Giuliano Palma, Giuliano The King Palma e Alyosha Bibidai Bisceglia sono le voci perfette da accoppiare sulle note intessute dal gruppo. Giuliano dall'avvolgente tono, dal sapore di lentezza cadenzata e melodica, in un contrasto con la sincopata metrica di Alyosha, buttata quasi a caso e quindi perfetta al primo colpo. In definitiva, i Casino Royale hanno viaggiato nello spazio-tempo del prima, del durante e del dopo della musica, incuranti di aver creato un piccolo grande capolavoro con questo Sempre più vicini, che infatti adesso ci sentiremo la title track, sempre presa da, ormai direi, dal saccheggiatissimo 1996 adesso, e quindi Sempre più vicino in quest'altra versione live per Tonight Alive. Casino Royale, Radio Wombat. We'll be right back. E questa appunto era sempre più vicino nella versione live presa da 1996 adesso, e appunto adesso sarebbe il momento di 1996 adesso, che album dal vivo del 1996, ma ovviamente ve l'ho già fatta ascoltare in buona parte, quindi evito di farvelo ascoltare dell'altro, anche se secondo me, se proprio uno volesse avere un disco dei Casino Royale, secondo me questo sarebbe proprio quello che consiglierei a scatola chiusa, un live veramente che è un capolavoro, un pezzo dietro l'altro, e forse per me ve lo farei veramente ascoltare tutto, sarebbe stato da paraculi mettervelo come live scelto per la serata di oggi, quindi non l'ho fatto, però vi ho fatto ascoltare un bel po' di questo live, perché secondo me è veramente uno dei migliori dischi dei Casino Royale, anche solo per sentire la loro versione live, che è quella che quantomeno io preferisco, perché in versione concerto hanno sempre sono sempre stati tanta roba i Casino Royale. Però questo appunto, questo 1996 adesso, è stato registrato il 15 dicembre del 1995 in una tappa a Svizzera durante il tour di Sempre Più Vicini, e in questo album la sezione fiati viene reintegrata con l'inserimento in line-up di Gabriele Rata Biondi alla tromba, alla melodica e alle percussioni, Roberto Gato Barbieri al sax tenore e al flauto, appunto sono ingaggiati per questo tour, e in questo album si sente pesantemente l'utilizzo del campionatore, dei fiati e dei suoni elettronici. Infatti l'apporto fondamentale dei Sangue Misto hanno come risultato la rielaborazione completa delle canzoni del gruppo, e l'album preannuncia la scelta artistica che porterà a realizzare l'anno dopo l'album della definitiva consacrazione e secondo me della definitiva maturità del gruppo, CRX. Tra l'altro in quel 1996 Giuliano Palma ha dato la voce a una delle grandi hit commerciali di quell'anno, ovvero Aspettando il Sole di Neffa. E appunto è arrivato il momento di parlare di CRX del 1997, album appunto, come detto, della definitiva consacrazione e maturità dei Casino Royale, primo album a uscire totalmente sotto l'etichetta major della Polygram, e appunto è l'album della definitiva maturazione musicale, testuale e artistica dei Casino Royale. Tra l'ottobre del 1996 e il febbraio del 1997 registrano tra Londra, nel quartiere di Lansdowne, e Varese l'album CRX, coprodotto dalla band assieme a Tim Holmes, prima produttore dei Primal Scream e poi membro dei Death in Vegas, duo dub psichedelico elettronico che si farà notare soprattutto nel 1999 con le The Continuous Session, album notevole con ospiti illustri come Iggy Pop, Bobby Gillespie dei Primal Scream e nonché uno dei batteristi dei Jesus and Mary Chain. L'album è fortemente influenzato dal drum and bass e dalla breakbeat, viene accolto molto bene dalla critica ma il suo suono scarno e algido, decisamente all'avanguardia rispetto alle produzioni italiane dello stesso periodo. Il suono è completamente diverso, ma la formazione è la stessa di 1996 adesso, ovvero Bibi Dai Alyosha e Giuliano De King Palma alla voce, il Pardo alla chitarra, Patrick alle tastiere, Manna al basso, Rata e Gato ai fiati, insieme a Perry Frisia e Claudio Ongaro, e in più ovviamente gli scratch e le elaborazioni elettroniche del grande DJ Graf. CRX sicuramente non è un lavoro di passaggio, ma è invece una conferma come risultato di un'intensa ricerca tra Londra e Milano, un tentativo di mettere, rimettere in discussione delle certezze acquisite nel corso di questi anni. Infatti questo album è un'ulteriore evoluzione del suono del gruppo verso un qualcosa di diverso, in questo caso verso, appunto, come già detto, la drum and bass, la breakbeat, la jungle, dei suoni tipici londinesi. Questo approccio non era stato facile capirlo allora, è proprio un ennesimo sconvolgimento del suono, sconvolgimento e evoluzione del suono dei Casino Royale. È pur sempre certo che, appunto, i Casino Royale siano riusciti a dimostrare nuovamente che è fondamentale fare tesoro delle esperienze passate per coniugare il linguaggio delle macchine con il sentimento umano. E appunto adesso ascoltiamoci il brano omonimo tratto da CRX, e CRX appunto stava per Casino Royale 10, ovvero il decimo anno di esistenza di Casino Royale, e sentiamoci adesso appunto CRX con il sottotitolo Io rifletto, brano storico di quell'album del 1997, e quindi CRX su Tonight Alive Radio Wombat. We'll be right back. si muove la mia ombra, posso muovere ogni cosa. Io rifletto, milioni contro uno. Io rifletto, il panico dell'insetto. Io rifletto, migliaia di parole. Io rifletto, 90.000 ore. Io rifletto, ancora più vicino. Io rifletto, il mio coefficiente è il massimo. Sento intorno, riflesso su di me. Lacrime e sorrisi sono dei miei simili. Non li vedi, riflessi su di te. Segni temibili, sono questa genesi. Sento intorno, riflessi su di me. Le lacrime e sorrisi, sogni dei miei simili. Ora vedi, rifletto su di te. Segni temibili, sono la mia genesi. Io rifletto, che sai l'affetto. Io rifletto, assoluto il mio mito. Io rifletto, il mio miglior amico. Io rifletto, rifletto ciò che dico. Io rifletto, e cerco la mia forma. Io rifletto, a Milano come a Londra. Io rifletto, qual è la mia fortuna. Io rifletto, ho la sentita e fuma. Io rifletto, e cerco la mia strada. Io rifletto, e qual è la mia cosa. Io rifletto, questa è la mia città. Io rifletto, Milano fratricida. Io rifletto, e questa è la mia sfida. Io rifletto, e questa è la mia sfida. Io rifletto, 5 round e 2 minuti. Io rifletto, qualcuno mi aiuti. Io rifletto. E questo appunto era CRX. E appunto questo CRX è un puzzle di parole e ritmo come uno specchio del 2000, e infatti non a caso questa è l'idea della copertina dell'album, se la recupererete. Nell'interno appunto c'è questa opera che si chiama Specchio. Ma non è solo questo, è anche nella sua complessità un lavoro che partorisce atmosfere da psichedelia futurista, in quanto il gruppo non si accontenta di suonare del secco drum and bass, ma cerca di toccare gli orizzonti e di allargarsi fondendo dub e soul in una miscela dagli ingredienti poco definibili. Inoltre, molto interessante è là dove alla fine un ricordo del massacro compiuto a Sarajevo in Bosnia, con la guerra appunto jugoslava che ha insanguinato tutti i Balcani per quasi tutti gli anni 90. Le immagini evocative di una quotidianità in una città sotto assedio, sotto i colpi dei mortai e dai cecchini nascosti nei palazzi, sono declamati sopra una solida base drum and bass narcolettica, accompagnata dai tocchi sapienti di synth di Patrick e il ritornello di Giuliano che dà la giusta quadratura alla canzone, che è veramente bellissima per chi abbia un minimo di idea di cosa abbia significato l'assedio di questa città negli anni 90. E appunto, prima di farvi sentire questo pezzo bellissimo, volevo salutare tutti gli amici slavi che spero magari stiano ascoltando questa trasmissione di stasera. Un saluto a tutti, e prima di sentirci là dov'è la fine, come sempre, Smrt fascismu sloboda narodu, là dov'è la fine. se paia. Il cane rabbioso della guerra investe lì tua baia. Armi di ferro, fumo, zolfo, fuoco. Sei quello che sei, non quello che sarà tra poco. Trascorre la tua vita dentro un incubo, costretto a vivere ogni istante come potesse essere l'ultimo. La tenuta a distanza, la la la, l'indifferenza. Al centro del mirino di un cecchino, tu impari a muoverti con il tuo Cristo. Sì, io vi ho visto attraversare assieme le strade più a rischio. La la la, là dove è la fine del fiume, là dove per spiegare non servono parole, là ci vuole tu. La la la, là dove è la fine del fiume, là dove serve un mare per spegnere il dolore, non c'è amore. Ora qui la situazione è ovvia, ogni soluzione certamente a questo punto può sembrare dubbia. È l'uomo che distrugge per distruggersi, l'istinto della belva che adesso spinge ai limiti. La nero odio, oscura umanità e giustizia. Io prego che la mia pietà lasci posta la rabbia. Lacrime di amici che ora cadono, ossido di morte segna il freddo acciaio. E guarda, sai, sì, ne è quello che siamo, il meglio e il peggio dell'essere umano. La la, là dove è la fine del fiume, là dove per spiegare non servono parole, là ci vuole tu. La la la, là dove è la fine del fiume, là dove serve un mare per spegnere il dolore, non c'è amore. Ti immagini, sì, sentiti più vicino di quanto l'immagini, sì, sentili più vicino di quanto ti immagini, sì, sentiti più vicino di quanto l'immagini, sì, sentili. Dunque tu sempre sia lodato, noi ti ringraziamo per l'ennesima razione di quell'odio quotidiano. Là, là dove un bambino impara a ridere quando la terra trema, non va un problema, non va un problema, non va un problema, non va un problema, non va un problema, non va un problema, non c'è problema. La la la, là dove è la fine del fiume, là dove per spiegare non servono parole, là ci vuole. La la la, là dove è la fine del fiume, là dove serve un mare per spegnere il dolore, non c'è amore. La la la, là dove è la fine del fiume, là dove per spiegare non servono parole, là ci vuole. La la la, là dove è la fine del fiume, là dove serve un mare per spegnere il dolore, non c'è amore. Bellissima questa, là dove è la fine, veramente, veramente stupenda, uno spaccato di storia europea degli anni 90. E appunto ai primi ascolti l'approccio può sembrare un po' ostico, soprattutto per chi non è abituato alla fluidità di un sound che ha avuto i suoi natali nell'autunno londinese. Il singolo CRX, dal quale prende il titolo l'album, è già molto più accessibile, anche se i gioielli veri e propri sono altre tracce come Ora solo io ora e The Future su tutte. la prima in bilico tra il piano di Patrick e la calda voce di Giuliano dei King Palma, è il punto di incrocio della nuova anima dei Casino Royale, mentre la seconda si regge sulle pulsazioni di un basso che sembra scandire la quotidianità. Ogni stop è solo un altro start, dice il ritornello. Nell'intero lavoro si percepisce, soprattutto a livello dei testi, l'effettiva tendenza del gruppo di denunciare un senso di disorientamento, tanto che la breve canzone Benvenuto in mia casa e ancora di più Là sopra qualcuno ti ama rendono a chiare lettere questo concetto, questa percezione di una società eterocentrica che non consente all'individuo di riaffermare la propria individualità senza ricorrere alla relativizzazione culturale e alla necessaria riflessione su se stesso per specchiarsi poi nelle altre culture. E sentiamoci la fondamentale The Future. Like looking in the mirror, what you should see is your reflection. As time goes by, you'll see a biological transformation. Now take a look around you, what do you see? I don't know about you, but I'm seeing my reflection. The future, the children, need protection. Every stop is just another start. So if you fail, don't take it to heart. Life goes on. Scene! La mente che ogni giorno è schiacciata da qualcosa, ora riposa, impolverata dalle proprie ansie. Io fumo la mia vita aspirando lentamente. Porte e finestre sono chiuse, le comunicazioni con l'esterno sono confuse, sono concluse. La carica emotiva è situata giù in profondità ed ogni mio pensiero taglia l'aria. Oh mon Dio, oh my gosh, oh mio Dio, ah, questa è la mia storia, questo sono io. Durante la missione sulla terra, in un attimo di pausa in un'eterna guerra. Insomma, sai, sembra sarà così per sempre. Insomma, sai, sembra che non ci siano nuove su quel fronte. Un altro giorno, e questo è quello che ti viene incontro. Ogni stop è solo una posta. La vita non si forma, tic tac. Ogni stop è solo una posta. Il tempo non si forma, the future. Ogni stop è solo una posta. La vita non si forma, tic tac. Ogni stop è solo una posta. Non si ferma. Piano, meglio andare piano. Il piano è stabilito. Adesso cominciamo, procediamo vita. Finché non è finita, rinizia la salita. Strisciando si risale una parete obliqua. E quando arriva al top, arriva un altro stop. Ed immediatamente torna in stato di shock. Nel settore K, Z, K. Ancora scioccata. La condizione stabilmente alterna. Moto perfetto. La macchina del tempo sta tornando indietro. Restare qui in controllo è scienza. Inizia e lanci. Ricomincia sopra stress. Ogni singolo giorno in Babilonia. Special guest. Special guest. Ogni singolo giorno in Babilonia. Super stress. Ogni stop è solo una posta. La vita non si forma. Tic tac. Ogni stop. The future. Ogni stop è solo una tosta. La vita non si forma. Tic tac. Ogni stop è solo una tosta. Il tempo non si forma. The law of innocence protects the innocent. Spiritual vibes coming from deep within. Don't feel left out because we don't reside in the same dimension. We share the same perplexion. Direction, moving forward, never looking back. For action which does not exist, but yet you feel you lack. Sì, sì, se la via va così e tutto intorno a te sembra confonderti. Consulto il manuale di sopravvivenza. Stop e lanci, si rientra, è emergenza. Penso nel rifugio. sorriso in attesa che la carica esploda. Remember, ricorda, c'è sempre un'altra prova, sei sempre sotto prova, se non riesci riprova. Non fotterti il tuo tempo perché il tempo vola. Io non ti conosco ma tu sai chi sono, tu non mi conosci ma io so chi sei. Io ti rifletto, tutto for was a day, resta quello che sei. A tutti for was a day, al limite a quello che sei, cercando di afferrare sempre il meglio, restando come prima, come sempre pronti al peggio. Abili arruolati, non si può tornare a casa, questo è il futuro, destinazione mia. Ogni stop è solo una frusta, la vita non si ferma, tic tac. Ogni stop è solo una frusta, il tempo non si ferma, the future. Ogni stop è solo una frusta, la vita non si ferma, tic tac. Ogni stop è solo una frusta, il tempo non si ferma. Ogni stop è solo una frusta, la vita non si ferma, tic tac. Questa era la bellissima The Future, appunto, di CRX. E con il tour di CRX i Casino Royale apriranno anche i concerti di due date del Pop Mart Tour degli U2, rispettivamente a Roma e a Reggio Emilia. E anche se la critica di settore accoglie CRX con un entusiasmo fuori dal comune, cosa, cioè, è una delle primissime volte che un album dei Casino Royale viene appunto recensito con così tanta benevolenza, ecco, da parte della critica musicale. Tutti mettono l'accento sulla qualità dei suoni, sulla pazzesca evoluzione della scrittura della band, sul fatto che nessun disco italiano abbia mai suonato in questa maniera. È la qualità dei suoni di CRX che colpisce anche a più di 20 anni di distanza, scuro e profondissimo, decisamente meno datato di quanto ci si aspetterebbe. È una cosa diversa da tutto, un territorio inesplorato e potenzialmente fruttuosissimo. Non c'è dubbio che sia il miglior disco dei Casino Royale fino a questo momento, quello con la maggior visione d'insieme. Non è un semplice tentativo di portare la club culture in Italia, né tantomeno un normale disco di canzoni italiane con qualche intervento in extremis di un produttore drum and bass alla moda. È un'altra cosa, un ibrido pensato sulla base di una concezione musicale autocostruita che afferma con orgoglio la sua alterità e si guarda bene dall'offrire troppe vie d'accesso, ed è questa la ragione del suo insuccesso, fondamentalmente, purtroppo. Dicevo che è la storia di una sconfitta, un tour nei palazzetti che la band non può riempire nemmeno l'ombra di un singolo in alta classifica. Le vendite del disco sono ben al di sotto delle aspettative di un'etichetta come la major, appunto, Polygram. E allora il gruppo e l'etichetta da lì a brevissimo divorzieranno e la tensione in seno alla band crescerà sempre di più e i membri della band si rifugeranno rispettivamente nei vari progetti paralleli, ovvero i Royal Eyes per la parte della band legata al drum and bass. Royal Eyes è proprio un progetto esclusivamente drum and bass, e appunto i Giuliano Palma and the Blue Beaters, che vanno proprio in completamente in un'altra direzione. Fino a che ovviamente la band si scioglierà ufficialmente. Ma delle tante strade che l'alternative italiano si è rifiutato categoricamente di percorrere, credo che quella tracciata da CRX sia ancora una di quelle con più potenziale nascosto e che ha fatto, è una di quelle che ha fatto più male veder interrompersi così senza un seguito. L'attività del gruppo ovviamente vive una battuta d'arresto, la band apre una propria etichetta Royalty e inizia il progetto, appunto come già detto, progetto parallelo Royalize, prodotto da Pardo e orientato alla sperimentazione elettronica. Invece Giuliano Palma, Patrick, una parte dei fiatisti, anche Bunna degli Africa Unite, formeranno i Giuliano Palma and the Blue Beaters. Appunto questa è questa forte scissione e inizio di progetti paralleli ovviamente darà seguito allo scioglimento definitivo della band e all'insanabile spaccatura tra Alyosha e Giuliano Palma. Nel 2002 alcuni nuovi brani sono scaricabili in download dal sito ufficiale del gruppo e appunto la band riprende nuova linfa, ricomincerà l'attività live. Nel 2003 viene pubblicato il brano Protect Me su maxi singolo contenente, oltre al brano originale, anche altri 7 remix, e il 27 ottobre del 2006 viene pubblicato il nuovo disco del gruppo Reale, prodotto questa volta da un mostro sacro come londinese come OEB, e che è anche la prima pubblicazione dopo CRX del 1997. A quasi un anno di distanza poi ritorneranno con Not In My Face, una versione in chiave dub dance di Reale, realizzata anche questa da OEB, mentre nel 2011 verrà pubblicato il nuovo album Io e la mia ombra, che è anche l'ultimo album per ora pubblicato dalla reunion dei Casino Royale. E tra l'altro i Casino Royale nel 2011 prenderanno anche parte al corteo per il decennale del G8 a Genova. Sicuramente i Casino Royale sono stati un gruppo fondamentale, almeno secondo me, degli anni 90, anche solo per l'evoluzione musicale e testuale che hanno avuto, appunto partendo dal più puro ska in stile Madness e Special. Abbiamo poi visto che attraverso l'hip hop, il trip hop, sono poi arrivati a questo crossover di drum and bass, e insomma secondo me ne valeva proprio la pena di fare questa puntata sui Casino Royale. E prima di passare ai consueti saluti di fine puntata, appunto vi volevo introdurre il live che ho scelto per voi, ma che ricordo, come scrivo sempre tutte le volte nei post, che questi concerti non sono ovviamente contenuti nel podcast, ma sono ascoltabili solo adesso per la diretta di sabato sera e anche per la replica di giovedì sera alle 23, come vi ricordo sempre, appunto la replica di questa puntata di Tonight Alive. Ma appunto, arrivando a questo live, ho trovato, scartabellando appunto perché, come vi dicevo prima, mettervi come live finale 1996 adesso mi sembrava un po' troppo paraculo, sono riuscito a trovare questo live, che tra l'altro non avevo mai sentito nemmeno io, e che però è bellissimo e ne vale proprio la pena, quasi 50 minuti di questo 1993, esattamente il 26 giugno del 1993, ad Arezzo, a quello che una volta era il leggendario Arezzo Wave Festival. Non so se ora, se siete toscani, penso che abbiate ben presente questo festival, che è ormai nei programmi toscani da tanto tanto tempo. Appunto, questo è addirittura del 1993, anche questo evento ha avuto molte evoluzioni, ora diciamo che è nella sua fase più commerciale. E come tutto è stato istituzionalizzato, diciamo, per averne più ricavi possibili, come la legge del mercato impone. Però appunto questa invece è una registrazione di un Arezzo Wave Festival di un bel po' di anni fa, del 1993, diciamo 25 anni fa. Niente proprio di meno che, però, insomma, come ho detto, anche se erano agli inizi e era appena uscito Dynamita nel Casino Royale in versione live, sempre tanta tanta roba. Poi casomai fatemi sapere se è piaciuto anche a voi come è piaciuto a me. Bene, allora a questo punto non mi resta altro che fare i saluti finali. Come sempre, augurarvi un buon proseguo di sabato sera, divertitevi, e con me ci ritroveremo sabato prossimo con una nuova puntata di Basement Records insieme a Gino, e per Tonight Alive una nuova monografia vi aspetterà tra 15 giorni. E allora non vi posso che augurare un buon sabato sera e un continuo qui sulle frequenze di Radio Wombat. Un bacione a tutti, a sabato prossimo! Wombat. Radio Wombat.